aprire delle nuove, dei nuovi settori, delle nuove prospettive sia un fatto estremamente da sostenere. Sì, da sostenere, certo. Lei dice favorire il mercato delle pompe di calore, perché dovremmo farlo? Perché è certamente un modo efficiente per riscaldare gli edifici e raffreddarli, insomma, è una tecnologia corretta dal punto di vista dell'efficienza energetica. L'altro aspetto che si può sottolineare è che queste macchine sono macchine invertibili, quindi che possono fare caldo e freddo, e quindi per tutte le applicazioni in cui c'è bisogno di, sicuramente bisogno di condizionamento estivo, si va su una soluzione a pompa di calore, e allora ben vengano queste proposte innovative. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, buon pomeriggio a tutti. In questa puntata siamo andati a Urgnano, poco più a sud di Bergamo, per raggiungere Marino Piazentali, ideatore del sistema FEE per la refrigerazione industriale, che ci ha chiamato lì poiché ci ha detto: ho mantenuto la promessa che avevo fatto a Radio 24 quattro anni fa, ovvero riscaldamento gratis e senza combustione chimica. Nella prima parte ci ha spiegato di che si tratta, abbiamo sentito il parere del professor Marco Masuero, docente di fisica tecnica industriale al Politecnico di Torino. Abbiamo sentito anche la soddisfazione dei proprietari del piccolo centro commerciale in cui Marino Piazentà ha installato il suo sistema, e adesso sentiamo il parere di chi pensa di utilizzare questo sistema nella sua attività. Ad esempio, Cristian Busato è direttore commerciale di Zambo Frigo, anche lui interessato all'impianto di Marino Piazentà a Urgnano. Sentiamo perché, e sentiamo prima di tutto però cos'è Zambo Frigo e di che si occupa. È un'azienda di refrigerazione commerciale specializzata in impianti di refrigerazione alimentare. Noi abbiamo quindi refrigerazione alimentare, perdoni, stiamo parlando di farci capire, supermercati? Esattamente, supermercati, gli impianti che fanno il freddo che conserva i prodotti che poi noi acquistiamo ogni giorno. Consideri che noi abbiamo creduto fin dall'inizio nella tecnologia FE, fin da quando era disponibile la sua applicazione nativa, cioè sostanzialmente destinata appunto a migliorare il funzionamento di questi impianti di freddo alimentare, permettendo dei risparmi dal 20 al 30%. Per noi è stato ovviamente facile quando abbiamo capito l'importanza e soprattutto il fatto che il sistema idrotermico funzionava, comprendere anche l'espansione del mercato, ovvero a tutti gli altri settori, dal pubblico all'ospedaliero piuttosto che all'alberghiero e, come abbiamo detto, anche al residenziale. La GDO però merita un approfondimento, perché grande distribuzione, traduco, certo, grande distribuzione alimentare con i suoi oltre 16.000 punti vendita di vari formati in Italia. Come abbiamo detto prima, è uno dei settori più energivori, che ha un maggiore impatto sul consumo energetico a livello addirittura di sistema paese. E purtroppo noi stiamo registrando un certo grado di ritardo nella grande distribuzione in Italia, sia a livello governativo che a livello imprenditoriale. A livello governativo, secondo me, può essere utile fare riferimento alla Francia, dove recentemente è stato siglato un accordo tra il Ministero dell'Ecologia e i rappresentanti della grande distribuzione organizzata a livello paese per chiudere tutti i murali delle temperature positive, dove troviamo il formaggio, gli yogurt, i latticini e quant'altro. E con uno sportello che però contenesse tutta l'energia sostanzialmente, che altrimenti è sprecata. Questo appunto ha identificato non solo la consapevolezza di quanto questo settore consumi a livello paese, quindi incida a livello paese, ma soprattutto quanto in realtà ci sia spreco energetico in questi tipi di format, che oggi moltissime tecnologie possono permettere di ridurre. L'altro grande ritardo che stiamo registrando però purtroppo è a livello imprenditoriale, dove a differenza di altri paesi poco si è fatto, e davvero poco sono gli investimenti concreti in appunto tecnologie per rendere più efficienti i consumi energetici di questi format. E noi crediamo che il sistema eliotermico possa in qualche modo rivoluzionare questo approccio, soprattutto costringere molte aziende a rivedere la propria chiusura verso il fotovoltaico, che fino ad oggi è stata quasi totale. Come la motivavano questa chiusura? Sono tantissime le motivazioni che noi abbiamo raccolto, da quelle più tecniche, tipo sostanzialmente poca resistenza, poca portanza dei tetti, che però sembrava molto una scusa, da quelle più sostanzialmente legate all'aspetto finanziario. Oggi però il sistema eliotermico rivoluziona il concetto stesso dell'impianto fotovoltaico, non è più un impianto fotovoltaico, e con la grande quantità di energia termica che rende a disposizione in maniera completamente gratuita, permette di ambire in maniera molto realistica all'obiettivo dell'autonomia energetica. Quindi è un passo in avanti che secondo noi costringerà molta gente a rivedere le proprie posizioni. Quindi insomma voi vi state muovendo in questa direzione nella speranza che purtroppo forse la crisi muova, scuota finalmente l'attenzione, insomma le coscienze. Il costo energetico nelle bollette sta aumentando in maniera drastica, a tal punto che molte catene ormai cominciano a considerare non tanto i risparmi in euro, quanto di annullare la dipendenza da alcune fonti, tipo per esempio il gas che viene bruciato per fare riscaldamento. Questo annullamento di dipendenza significa non avere più variabili su quello che sarà il costo di approvvigionamento di domani. Forse questo però non sta accadendo a livello governativo. Citava prima il caso della Francia, in Italia stiamo purtroppo tornando indietro, almeno questo è quello che sembra. Che impressione ne avete? Purtroppo la sensazione è quella, se non altro di immobilità. Noi stiamo cercando a livello di diciamo associazioni di rappresentanza a livello nazionale appunto di emulare i casi migliori come quello della Francia e di comunque instillare una consapevolezza nuova. Faccio un esempio abbastanza inusuale: in Spagna tutte le più grosse catene di grande distribuzione hanno investito ingenti budget nell'efficientamento energetico dei propri punti vendita, dimostrando consapevolezza, sensibilità ma anche conoscenza delle tecnologie che oggi sono a disposizione. L'Italia è davvero immobile sotto questo profilo. E a questo punto vi ricordo il nostro indirizzo email, l'altropianeta@radio24.it, per le vostre osservazioni sul tema del quale abbiamo parlato. Vi ricordo anche www.sistemafee.it per saperne di più e magari contattare direttamente Marino Piasentà per le vostre curiosità. E adesso è il momento di cedere il microfono a Marco Carminati per una nuova puntata di Articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nostra nazione. Buongiorno da Marco Carminati, la stagione balneare è cominciata, quindi parliamo di mare e di spiagge. E parliamo di mare e di spiagge con Sebastiano Venneri, che è il responsabile Lega Ambiente Mare. Buongiorno, dottor Venneri. Buongiorno, bentrovati. Eccoci qua. Allora, voi avete predisposto proprio per questa stagione un'importante opera, la Guida Blu 2012, che avete realizzato insieme al Touring Club Italiano per misurare lo stato di salute delle nostre spiagge e del nostro mare. Ecco, che cosa possiamo dedurre quest'anno da questa vostra ricerca? Noi intanto abbiamo evidenziato quest'anno un dato particolarmente interessante. Cioè, abbiamo fatto una piccola ricerca sulle località premiate nel corso degli anni passati, sì, con il massimo dei nostri riconoscimenti, con le cinque vele, e abbiamo scoperto che in queste località il turismo non conosce crisi, cioè il turismo di qualità in queste località ha battuto la crisi economica di questi giorni con cifre impressionanti, quasi il doppio della domanda turistica rispetto alla media delle località balneari, con importanti percentuali di moltiplicazione della domanda e anche dell'offerta di qualità turistica. Entrando nel dettaglio, diciamo, della classifica, troviamo molta Sardegna, ovviamente, ben 4 località tra le prime 13 classificate sono sarde: c'è Baunei, c'è Bosa, c'è Posada, c'è Villa Sinius in provincia di Cagliari, e poi ci sono 3 località siciliane, noto San Vitolo Capo e Santa Marina Salina, questo piccolo comune nell'arcipelago delle Eolie che conquista addirittura il primo posto in assoluto della nostra classifica. C'è un po' di Puglia, soprattutto la parte salentina, Ostuni e Melendugno in provincia di Lecce, che è la new entry di quest'anno in questa classifica. Poi ci sono 2 località della Toscana, Capalbio e Castiglion della Pescaia, che sono vecchie conoscenze, per così dire, certo, della nostra classifica, e Pollica in Parco Nazionale del Cilento, cittadina che è diventata nel corso degli anni la perla del Cilento, tristemente nota purtroppo, certo, perché era stata amministrata dal sindaco Angelo Vassallo, ammazzato 2 anni ucciso. Fa. Certo. E probabilmente anche per questioni diciamo legate al suo impegno forte per difendere la legalità e per promuovere la tutela del territorio nella sua cittadina, ne ha fatto veramente una perla e noi abbiamo confermato quest'anno il massimo riconoscimento a quella località. Questo è giustissimo, quindi il messaggio è chiarissimo: laddove si è investito nella qualità dell'ambiente l'economia è prospera. Il caso di Pollica tra l'altro è una rivincita per il sindaco Vassallo, che godrà laddove si trova di questo straordinario riconoscimento. Le Cinque Vele, ecco, quali sono le caratteristiche per potersi vedere assegnate le Cinque Vele? Quali sono i vostri parametri? Ma noi prendiamo in considerazione una moltitudine di indicatori riconducibili sostanzialmente a due grandi categorie. Una appunto è la qualità dell'ambiente, la qualità del territorio, e quindi andiamo a verificare quante aree protette ci sono, quanti abusi edilizi, quante spiagge libere, eccetera. E poi un'altra grande area di indicatori riconducibili alla qualità dei servizi, quindi alla buona gestione, alla gestione della mobilità, alla gestione dei rifiuti, al ciclo delle acque, al consumo di territorio, insomma tutte quelle cose che possono contribuire a aumentare la gradevolezza di una località, aumentare la gradevolezza di una vacanza. Sono cose, diciamo, difficilmente misurabili in termini oggettivi, per cui dichiaratamente ci mettiamo un elemento di valutazione soggettiva da parte dei nostri circoli di Lega Ambiente e dell'equipaggio di Goletta Verde che ogni anno percorre la nostra penisola, e alla fine appunto restituiamo questa classifica, che è fatta sulle località costiere marine ma anche su quelle lacustri. Ci sono anche 70 località di lago, certo, che abbiamo messo in classifica quest'anno, e insomma è un appuntamento molto atteso che alla fine restituisce secondo noi un quadro verosimile della qualità delle località costiere del nostro paese. Allora, benissimo, qui prima di partire bisogna per forza consultare la guida blu 2012 redatta da Lega Ambiente Mare con il Touring, insieme al Touring. Per fortuna quasi tutte le regioni italiane hanno segnalazioni positive, quindi non dovremmo sbagliare la nostra meta marina. Io ringrazio molto il dottor Veneri, e a tutti gli ascoltatori, oltre a un cordiale saluto, anche una buona vacanza e una buona vacanza al mare. È tutto anche per questa puntata. Vi ricordo, per contattarci, l'altropianeta@radio24.it. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.